Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. La realtà ti vuole chiuso, omologato coi tuoi guai. Tu renditi diverso dal suo senso dello stato. Sei diverso da ogni altro dal momento in cui sei nato. Non credere alle voci che ti dicono ciò che avrai. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. Lottando contro il fato, la natura, l'eterno ritorno. Edificando con i gesti il proprio spazio nel mondo. Popolazioni del passato hanno conquistato un'immortalità che nessun dio mortale ha mai incrinato. Ma questa in fondo è storia, e storia la sappiamo. Un passato che di certo noi non scordiamo. La questione che si pone nel presente in cui viviamo. Tutto ciò che ci propone, tutto quello che noi siamo. Prende l'incessante susseguirsi di episodi senza trama. L'interesse più immediato, la brama di possesso. La ragione strumentale che ti sfama con l'eccesso più deviato della tua sazietà individuale. La questione che si pone è che sembra immorale immolare l'immortale. Mentre il tempo per un gesto positivo viene sprecato con la vana concezione di un progresso universale. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. La realtà ti vuole chiuso, omologato coi tuoi guai. Tu renditi diverso dal suo senso dello stato. Sei diverso da ogni altro dal momento in cui sei nato. Non credere alle voci che ti dicono ciò che avrai. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. Fai, fai, che cosa fai? Con i tuoi intenti dove vai? Certi momenti ricordati chi sei, che altrimenti nel mezzo del cammin ti perderai. E noi perderemo le tue tracce e il tuo ricordo, l'unicità inespressa del tuo sguardo, l'energia dispersa nell'entropica semplicità del vivere senza alcun traguardo. E allora dai, ricordati chi sei. Sei figlio del passato, del presente o del futuro. Paradiso, inferno e purgatorio di un mondo che invecchiato è diventato più immaturo. Se adesso tu ti aggrappi al quotidiano, cauterizzi le afflizioni appoggiandoti ai santoni dello stile di vita sano. A me pare strano che bloccare le emozioni sia essere sano. Considerazioni? Ti ha spacciato la bigiotteria per l'oro di un sultano. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. La realtà ti vuole chiuso, omologato coi tuoi guai. Tu renditi diverso dal suo senso dello stato. Sei diverso da ogni altro dal momento in cui sei nato. Non credere alle voci che ti dicono ciò che avrai. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. È un presente costante che ottenebra la mente coerentemente con i dogmi del festino consumista che propone, che propina merce luccicante, bensì insignificante quanto una velina. È un sistema che combina una sconcezza di dottrine e vacue scariche d'adrenalina. È un sistema morte zero in cui è scomparso là al di là. La personalità si conformizza, l'uomo senza nome si realizza col cervello precondizionato, ormai diretto ad accettare l'illogicità della realtà. Vanità vaga e conformata dallo standard statistico. A costo di sembrarti troppo drastico, ti auspico a un'immersione nell'immensità come evasione e soprattutto sovversione. Ora ricordo chi sono, che sono un uomo in quanto tale, un pensatore con capacità d'azione. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai. La realtà ti vuole chiuso, omologato coi tuoi guai. Tu renditi diverso dal suo senso dello stato. Sei diverso da ogni altro dal momento in cui sei nato. Non credere alle voci che ti dicono ciò che avrai. Ricordati chi sei, chi sei, chi sei. Sei polvere alla polvere, presto ritornerai.